Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio e bentornati a Summertime. Questa sera dirigiamo i nostri passi verso le terme di Caracalla a Roma, dove c'è un'importantissima prima, la prima di Attila, un'opera di Verdi molto famosa e anche molto controversa, e l'allestimento è del maestro Pierluigi Pizzi. È un allestimento speciale proprio per la speciale location. Buon pomeriggio, maestro. Buongiorno. Allora, che cosa vuol dire trasportare un'opera come Attila di Verdi a Caracalla? Vuol dire pensare tutta un'altra cosa, perché ovviamente noi abbiamo avuto molti consensi per questa produzione al Costanzi di Attila, diretta da Riccardo Muti, che ha avuto veramente un seguito straordinario, consensi di pubblico e di critica praticamente unanimi. Ci siamo effettivamente appassionati a questa immagine che siamo riusciti a costruire al Costanzi. Ora, Caracalla è tutta un'altra atmosfera, è tutto un altro mondo, quindi bisognava pensare un'altra concezione, non dico tanto una concezione registica che praticamente alla base è rimasta la stessa, voglio dire, la lettura dell'opera che io ho cercato di fare al Costanzi la mantengo qui in qualche modo, però ho dovuto pensare a un'ambientazione che corrispondesse a Caracalla, che è un luogo molto particolare, che ha un grandissimo charme, come tutti sanno, però è completamente diverso. Bisogna fare i conti con queste imponenti rovine delle terme, che indubbiamente impongono un'attenzione particolare. Ora, in più ci sono tutti i problemi di un'ambientazione all'aperto, quindi per quello che riguarda anche l'acustica, le voci e tutto il resto. Quindi ho cercato una soluzione, un dispositivo che in qualche modo partisse da quello pensato per il Teatro Costanzi, ma che nello stesso tempo poi non facesse dimenticare tutto quello che c'è attorno. Ecco, noi sappiamo che l'opera Giuseppe Verdi l'ambienta ad Aquileia, no? Poi ci fu una diatriba anche con il librettista Francesco Maria Piave. Litigarono perché lui cambiò delle cose. È ambientata nel V secolo, i protagonisti sono Attila, Ezio e Odabella. C'è una vendetta che Odabella deve intraprendere nei confronti di Attila, che si trascina per tutta l'opera. Che le ha ucciso il padre, quindi questa è una premessa molto importante, perché questo sentimento di vendetta Odabella se lo porta dietro per tutta l'opera. Ecco, c'è questo antefatto molto grave e molto importante, però poi c'è la grande personalità di Attila, che domina praticamente tutta l'opera, anche se in fin dei conti non ha grandissime arie da cantare, però la sua presenza è determinante per tutto quello che poi accade a lui e attorno a lui. E tra l'altro, per me Attila, stando a quello che ci presenta Verdi e al suo librettista Piave, non ci dà quella quell'immagine di flagello di Dio con cui si identifica il personaggio di Attila, questo barbaro spietato. È tutt'altro che questo nell'opera di Verdi. È un uomo che si confronta con Dio, e tra l'altro a un certo momento sente la grande forza di Dio e si mette in ginocchio davanti a lui, si innamora, quindi è un uomo capace di amare, è un uomo leale, è un uomo che tiene conto della storia e della civiltà. Tant'è vero che io ho voluto subito iniziare l'opera con un segno molto preciso, cioè noi troviamo questi barbari che hanno invaso Aquileia e che si danno al saccheggio in qualche modo, ma cosa fanno? Bruciano i libri, cioè bruciano la storia, bruciano la civiltà, cercano di azzerare questa storia. E Attila al suo ingresso si rende conto che questo scempio è incivile e spegne questi incendi. E da questo si capisce che tipo di pensiero ha, è un condottiero illuminato, non è semplicemente un barbaro che fa strage dappertutto, indiscriminatamente, è un uomo capace di sentimenti. E questo è, secondo me, molto importante, perché in qualche modo riscatta l'immagine di questo personaggio da questo luogo comune che lo vede come qualcuno dopodiché non cresce, dove è passato lui non cresce più l'erba. Questo si è sempre detto di Attila, cioè, ce l'hanno insegnato a scuola, ma non è questo. Probabilmente, forse nella storia è nata questa idea, è nato questo personaggio, ma quello che Verdi ci propone è tutt'altro personaggio. Allora, ricordiamo l'appuntamento a Caracalla con l'allestimento del maestro Pier Luigi Pizzi, quindi già ci ha dato la scena iniziale e ci ha dato praticamente un antipasto, ma non vogliamo dire troppo, con questa bellissima opera di Verdi, Attila, ambientata nel V secolo, appunto Attila, Odabella e poi Ezio, il generale romano, e in uno scenario che ha a che fare proprio con l'antica Roma, che è quello magico delle Terme di Caracalla. Grazie. Buongiorno, arrivederci. E adesso noi andiamo al Vittoriale Teatro, dove questa sera c'è attesissimo un concerto, il 31 luglio appunto, che contrappone Ludovico Einaudi e Paolo Fresu. E abbiamo con noi proprio Ludovico Einaudi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, che cosa vuol dire fare un duetto, diciamo così, tra voi due che siete al top, no, della musica contemporanea? Direi che più che contrapporre, io direi unisce, armonizza, perché lo spirito, diciamo, di questo concerto è molto quello di un ascolto reciproco di quello che, diciamo, facciamo sul palco, quindi è un viaggio all'interno del, fondamentalmente, del mio repertorio musicale, in cui Fresu diciamo ogni tanto sottolinea alcune parti melodiche, poi commenta musicalmente quello che ascolta, ogni tanto ascolta in silenzio, e ogni tanto, questo lo faccio anch'io, diciamo che reagisco alle sue commenti e faccio delle variazioni temporanee rispetto a quello che sento che fa lui, ogni tanto mi fermo e ascolto quello che fa lui, e quindi è una specie di concerto di ascolto, di pensiero, di spirito, di meditazione anche. Lei praticamente è un poliedrico, perché è soprattutto un musicista classico, poi fa pop, fa rock, eccetera. Fresu è più jazzista. Allora, per noi è un po' difficile capire dove andrà a finire questo concerto, cioè iniziate. Sì. Ecco. Ma sì, in realtà Fresu però ha forse più di me fatto tantissime collaborazioni, sì, quindi lavorando con, non so, i cori della Corsica, piuttosto che lavorando con musicisti cubani, ma lavorando adesso fa un progetto con l'orchestra, quindi anche lui ha spaziato molto nel mondo musicale in modo trasversale, quindi, e questo lo dico perché questo presupposto è molto importante, perché rende possibile in qualche modo questa abitudine a entrare in dimensioni diverse, rende possibile questa nostra collaborazione, perché siamo abituati a questo, quindi ci viene anche molto naturale ascoltarci, reagire entrambi a quello che facciamo. Ecco, il Festival del Vittoriale quest'anno è stato molto ricco, ricordiamo si concluderà il 12 agosto, c'è stato Patti Smith, Paolo Conte, insomma, quindi la musica a tutto campo. Qual è il momento che lei teme di più in questo duetto? Ma non ho dei timori, nel senso che non ho, diciamo che non affronto mai il concerto con un timore, ma con una disponibilità, diciamo, a quello che cerco è di essere concentrato, e diciamo è un atteggiamento di reazione, di ascolto di quello che posso dire rispetto a quello che sento, che succede, quello che faccio. Non è un concerto, diciamo, che non si fonda su delle capacità virtuosistiche della musica, non è un concerto che vuole dimostrare, diciamo, tra di noi chi fa le note più veloci in questo senso, ma è un concerto in cui anche lo spazio del silenzio ha la sua importanza musicale. Allora, noi la ringraziamo e ricordiamo l'appuntamento il 31 luglio, appunto, Ludovica Einaudi e Paolo Fresu a Brescia, proprio al Vittoriale Teatro, il Festival del Vittoriale. Grazie. Grazie, buongiorno. E noi assolutamente andiamo al Teatro Franco Parenti di Milano, dove con Favola si chiude Summer Timi con Filippo Timi. Buon pomeriggio, Filippo. Buon pomeriggio, come va? Bene, ma allora è lo spettacolo che è andato in giro quest'inverno, in cui ci sono i marziani, in cui ci sono due donne che stanno sul palco una delle due sono io. E una delle due sei tu, vestito con una splendida gonna al ginocchio, anni 50? Sì, quello è soltanto uno dei cambi che Miu ci ha fatto apposta. No, abbiamo degli abiti che io ho, la mamma che ha urlato, mi ha diseredato se non in cambio ha voluto che le promettessi che alla fine dello spettacolo avrei regalato tutti i vestiti. No, sì, ma è uno spettacolo molto comico, fa molto ridere, alcune volte emoziona, quindi sono molto contento, ed è una super critica alla condizione della donna, però con la totale ironia del caso, nel senso che appunto essendo io fare una delle due donne, e quindi eccoci. E ne succedono di ogni, perché a un certo punto a me mi spunta un pitello, uccidiamo il marito, poi arrivano gli UFO, quindi proprio è un concentrato degli anni 50 e del paradosso, tutto in un linguaggio anni 50, quindi mai una parolaccia. Il massimo che queste due si permettono è ammonicolo. Sì, sì, no, ma infatti poi tra le altre cose lei sembra un po' l'amica bionda Kim Novak, no? Lei è vestita come un fumetto, sembra. Esatto, e, sì. E tu invece sei vestito con queste ampie gonne e tu fai un po' l'amica anche quella buona, no? Apparentemente buona. Apparentemente buona, poi invece anche vittima. Vittima di questo marito, e lei invece sembra quella più tosta e scopre quello che magari molte donne scoprivano negli anni 50, che il marito forse non è così interessato a lei, ma forse non è interessata a nessuna donna, ecco questo. Esatto, ma sì, questo guarda è un espediente per far sì che queste due donne alla fine si trovano sole a combattere contro il mondo, no? A reggere questo finto sorriso per bene per il mondo esterno, ma quando fingi troppo un sorriso alla fine poi crolla tutto. Infatti crolla il mondo e loro si innamorano e cominciano a creare e creeranno un nuovo tipo di amore, perché sono due donne con un pisello in mezzo. Come vai a chiamare una cosa del genere? Amore, punto. Senti Filippo, ma tu hai scritto il testo, sì, che è comunque, diciamolo, possiamo dirlo, un po' surreale, un po' molto surreale. Ma guarda, fino a un certo punto, ti dirò, io ho vissuto situazioni ancora più surreali, che non ci potevo credere, e parlo di situazioni con le mie zie umbre, quindi non pensare a situazioni da rave party, io sono molto a casa, ti assicuro che in Umbria le mie zie sono molto più paradossali. Quindi, cioè, nella patria di San Francesco, tu ci stai dicendo che ci sei. Ma da San Francesco, guarda che era un super rivoluzionario, eh? Cioè, figurati. Sì. Andava a parlare con le bestie, San Francesco, cioè era un vero figo. Senti Filippo, la scena più carina secondo me è quando tu a un certo punto non ti viene una parola, perché arriveranno gli astronavi, dici, e però che ci in... Sì, che lì... sì, e non mi viene, e lì c'è un qui pro quo con l'altro attore che è Luca Vignagnoli, che interpreta tre gemelli, il tonto, il ballerino di mambo e il figo. E in questo caso c'è il tonto e comincia una scena che dura un quarto d'ora di nonsenso puro, ecco, quello sì, quello è un nonsenso puro. Ti ripeto, alcune telefonate tra mia madre e zia Pia sono ancora peggio. Ah, e quindi tu dici che loro parlavano dei marziani che le incenerivano? Certo. Incenerizzavano. Incenerizzavano. Ah, ho capito. Allora, questo spettacolo è stato uno spettacolo che tu hai portato in tutta Italia, è stato un grandissimo successo. Adesso tu finisci al Teatro Franco Parenti, però andrai in giro anche quest'estate? No. Basta, sei stanchissimo. Ma basta, ho fatto un mese qua a teatro. No. Finiamo il 31, poi... Poi guarda, l'ultima data che ho è il 4 di agosto a Gubbio con Giulietta e Romeo, un altro spettacolo in Umbro, poi vacanza. E poi ci rivedremo quest'inverno, per novembre, ritorniamo qui al Parenti con l'Amleto, e poi a Roma. E poi il prossimo anno col Don Giovanni, però del Don Giovanni si parla di febbraio, quindi... molto in là. Un Don Giovanni che hai scritto tu? Ovvio, oramai sono megalomane. Quindi un Don Giovanni... Non mi accontento dei classici. Un Don Giovanni particolarissimo sarà. Allora, ricordiamo veramente chi se l'è perso quest'inverno, Filippo Timi con Favola, uno spettacolo a dir poco incredibile, molto molto particolare, molto divertente e soprattutto è anche molto molto carino vedere Filippo Timi vestito da donna anni 50 con queste gonne amplissime e questi vestiti splendidi. E i tacchi. Ho male ai piedi che non hai idea, tacchi e busti. E due ore e mezza di trucco, giuro che è finito, dopo il 31 appendo i tacchi al chiodo. È importante che ogni tanto anche gli uomini capiscano che cosa vuol dire portare i tacchi per le donne. Ma guarda, ma no, davvero, io ora appena appunto incontro una donna guardo subito i piedi e se hai i tacchi provo un amore sconfinato per lei. Pensa, e provo a scalzarla subito. E questo è anche un buon approccio per cuccare. Ah, ecco. Togliti i tacchi, so quanto fa male. Andiamo, non è male come frase. Ho capito. Non è che tu gli dai le tue scarpe, no? Anche perché mi sembrava i tuoi piedi non sono proprio piccolissimi. No, io porto il 47, no, è possibile. Quindi ti hanno dovuto fare delle scarpe appositamente, ovviamente, su misura. Sì, in Prada hanno fatto le scarpe apposta. No, ma sono bellissime poi, immaginati. Comunque, Miu, cioè sono proprio belle. Però sono il 47, quindi... Anche gli attori devono soffrire. Grazie Filippo. Grazie a te. Summer Timi e complimenti. Favola, uno spettacolo al Teatro Franco Parenti. Grazie. Buona giornata, ciao. Ciao, ciao. Ma perché non vengo a mangiare a casa mia stasera? Ma perché a mangiare a casa non ne ho io che devo venire da te. Ma che c'è? Ma chi c'è? Noi stiamo facendo una fe. Quando tu dici le cose che ti piacciono, non devi ridere. Lo so, ma... Capito? Sì. Perché una cosa... Se no paghi 10 euro, 15 euro e no. Ti metti dall'altro lato. E noi andiamo all'Arena Sant'Elia di Cagliari, dove il cielo si aprirà, sì, proprio se vogliamo dirla tutta, perché lo spettacolo si chiama Apriti Cielo, i protagonisti sono Ficarra e Picone, e abbiamo al telefono Picone, ma insomma questo spettacolo che ha debuttato poi all'Ambra Iovinelli di Roma, di che cosa parla? Siete proprio voi due, in carne ed ossa, tridimensionali? Saremo noi due in carne ed ossa, credo che ci sarà anche Ficarra, credo. No, che ce lo siamo persi perché sta dormendo, che succede? Ma non lo so, guarda, noi abbiamo la grande fortuna che prima dello spettacolo non ci sentiamo per tantissimo, poi magari la sera cominciamo a frequentarci, potessi, non so dove sia, però la sera dello spettacolo ci sarà e questo spettacolo è nel nostro stile, ci saranno dei quadri, degli sketch in cui insomma affronteremo delle... dei temi, ma in maniera sempre molto leggera. Ci saranno anche i siciliani stanchi che ritornano a commentare un po' di questa attualità, un po' di questi governi tecnici, e basta, tutto qui. Ma tu, Picone, che idea ti sei fatto, visto che tu oramai sei un anchorman, no, di un famoso telegiornale, diciamo così, che idea ti sei fatto di questo governo tecnico? Era più divertente quello di Berlusconi? Ma non c'è dubbio che quello di Berlusconi era più divertente, lì tutto è capire quanto quel governo abbia condizionato la vita non soltanto nostra ma anche quella dei nostri figli, perché ricordo che quel governo ci diceva fino a un giorno prima ci diceva che la crisi non c'era, e quindi chissà che se abbiamo perso tempo. Diciamo che alcuni hanno detto che quando è caduto il governo Berlusconi è stato il giorno più triste per la satira italiana, tu condividi questa opinione? Sì, da quel punto di vista sì, però ormai anche noi comici eravamo in difficoltà perché questi ci stavano superando, per cui non si capisce bene, forse è stato meglio che siano caduti, perché probabilmente la gente non sarebbe più andata ai nostri spettacoli di cabaret e sarebbe andata ai loro comizi, quindi avremmo perso lo stesso lavoro. Prendiamo un attimo i vostri personaggi, no? Che voi fate in questo spettacolo. Abbiamo ripreso i siciliani stanchi, che erano quelli che appunto arrivavano molto lentamente, commentavano i giornali a loro modo, e li abbiamo fatti rientrare in questo spettacolo solo perché appunto possono magari dare uno sguardo a questa attualità e possono commentare qualche cosa che magari succede il giorno stesso o qualche giorno prima. Ecco, ma voi vi preparate oppure leggete il giornale e vi viene così spontaneo? Sì, no, ci viene spontaneo perché... spesse volte noi facciamo come si fa nei bar, no? Cioè, tu hai l'immagine dei bar in cui entra un signore, prende il giornale, lo apre, legge una notizia e la commenta. Il nostro approccio spesso è questo. Commenterete soprattutto le Olimpiadi in questo periodo? Oh, non lo so, questo dipende da quello che... Può darsi che commenteremo anche le Olimpiadi, però non posso... Cioè, alcune volte si va anche a braccio rispetto a una cosa che succede il giorno prima. Da quanti anni, tanto per far capire ai nostri radioascoltatori, voi due collaborate insieme, e quanto conta il fatto che praticamente vi capita al volo? Sono 20 anni praticamente, sono 20 anni, abbiamo cominciato 20 anni fa, chiaramente scherzando, mai avremmo immaginato una cosa del genere, insomma, che ci saremmo seduti, che ne so, io dal bancone di Striscio fare dei film, sono 20 anni, è chiaro che ormai c'è molta sintonia, per cui ci sono delle cose che succedono anche in scena, anche nelle improvvisazioni, dopo 20 anni siamo molto, insomma, avvantaggiati. Ecco, quanto è pesato invece all'inizio essere del sud, no? Perché poi voi avete un po' rivoluzionato anche Striscia la Notizia, perché siete stati una coppia del sud che conduceva questo varietà, che generalmente appannaggio, no, di comici del nord. Ma a noi più che condizionarsi in negativo ci ha condizionati in positivo, perché il fatto che per esempio quando c'era Zelig noi dovevamo andare a fare i provini, e il provino a noi costava materialmente tempo e soprattutto soldi, cioè per andare a fare un provino tu spendevi un sacco di soldi, quindi arrivavi più deciso, più preparato e forse un po' più arrabbiato degli altri, che magari si facevano mezz'ora di macchina o addirittura nella stessa città di Milano, perché noi abbiamo vissuto sempre l'estate del sud come una cosa anzi positiva, che ti dà quel valore aggiunto. Quando siamo arrivati a Striscia è stata una cosa bella, perché ci siamo conquistati uno spazio e soprattutto ci siamo conquistati la possibilità di poter anche lì commentare al momento qualche cosa che l'attualità ci dava. Come vedi tu l'Italia di oggi, in questo paese un po' in difficoltà? Che cosa manca? Manca proprio un po' di comicità? Bah, non lo so, in questo momento vedo molta... a voler essere un po' seri, veramente aspetto che tutto questo momentaccio passi, perché c'è un po' di attesa, la gente è in attesa perché non si capisce bene questa benedetta crisi, se è in una fase in cui stiamo cominciando a risalire oppure in un momento in cui sta calando. E a poco servono i ragionamenti che stanno facendo molti su leggi elettorali e quant'altro, quindi vedo un po' di distacco totale della gente con il mondo della politica. Quindi insomma questo qui è un distacco che ancora esiste, che non è che è cambiato con il governo tecnico, ecco. No, il distacco sì, è aumentato, ma la gente ha la chiara percezione che questi sono dei tecnici, che non sono dei politici, che probabilmente, come hanno detto, non faranno e continueranno a fare politica, il distacco invece sta aumentando con gli altri che fanno politica da sempre, e mi sembra che forse alle prossime elezioni ci potrebbero essere delle sorprese in questo senso, chi lo sa, vedremo. E allora Ficarra e Picone magari si candidano a una lista Comicità? Ma manco per idea, ma che ci dobbiamo candidare? Se ci candidiamo noi, poi lo spettacolo diventa un comizio, non può essere, quindi noi continueremo a fare i comici, a prendere in giro non soltanto i politici, ma soprattutto noi stessi in quanto siciliani, noi stessi in quanto cittadini, che spesso parliamo, facciamo dei discorsi perfetti e poi magari non ci comportiamo benissimo. Ma insomma, poi tra le altre cose, la Sicilia in questo momento è che sta vivendo un momento molto bello, no? Con lo scandalo delle assunzioni, no? Quindi insomma avete di che riflettere anche nella vostra regione. Ma pensa tu che noi anni fa abbiamo fatto uno sketch dove scherzando dicevamo che in Sicilia si doveva fare una pista sciistica in cui insomma molte di quelle cose si sono avverate. Ora adesso la Sicilia si dice che è in fallimento e vabbè, faremo come le società, cambieremo nome e ricominceremo da capo, invece di chiamarla Sicilia ritorneremo a Trinacria, giusto per non avere problemi con gli esecutori poi del fallimento, capito? Gli esecutori fallimentari. Quindi una soluzione noi la troviamo sempre, e c'è da vedere poi quanto è sempre divertente questa soluzione, perché poi alla fine le spese le fanno un po' i nostri figli. Ma noi assolutamente chiediamo Ficarra e Picone for president in Sicily, ok? Va bene, anche se come gli finisce i presidenti non vorrei augurarmelo. Però. Allora ricordiamo invece lo spettacolo Apriti Cielo, con di nuovo sul palcoscenico i siciliani nati stanchi, proposti appunto da Ficarra e Picone questa sera all'Arena Sant'Elia di Cagliari. Grazie a Picone. E salutaci Ficarra quando si sveglia, ok? Va bene, ciao, grazie ciao. A tutti, vi aspetto, ciao. E anche per oggi, per Summertime, è tutto. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Un saluto da Elisabetta Fiorito.